Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Lavoro come responsabile di filiale in uno dei principali gruppi bancari italiani, in un paese del nord Italia. Ogni giorno mi confronto con i problemi di famiglie che si ingegnano per arrivare a fine mese, di risparmiatori disorientati, di aziende costrette e, sottolineo, costrette a lasciare a casa i propri dipendenti. Arrivo al punto. Succede che un operatore di uno dei principali gruppi bancari mondiali inserisca, non si sa se per errore o cosa, un ordine di borsa sbagliato, digitando miliardi anziché milioni. Il risultato è che una delle più grandi multinazionali al mondo vede dimezzata in pochi secondi la propria capitalizzazione, arrivando presumibilmente a un passo dal collasso e dal default. Allora mi chiedo, ma è possibile che una sola persona possa azzerare d'un tratto una realtà economica fatta di centinaia di stabilimenti, di decine di migliaia di dipendenti, di utili solidi e sostenibili nel tempo? Che mondo è quello in cui la speculazione di poche persone può sconvolgere la vita di milioni di persone? Gli attori di queste strategie speculative, pur partendo da più che legittimi principi di libertà e uguaglianza dei mercati, di fatto li manipolano con le loro enormi risorse e, grazie all'abnorme uso dei derivati, ne distorcono il funzionamento, rendendoli tutto tranne che equi e trasparenti. La creazione di ricchezza che ne deriva è ristretta nelle mani di sempre meno persone, alla faccia della democrazia e del benessere diffuso. Infine, il funzionamento dei mercati borsistici rispecchia sempre meno la realtà. Sono assolutamente a favore del libero mercato, ma la mia sensazione è che di questo passo i mercati borsistici mangeranno se stessi, imploderanno, trascinando con sé quegli strateghi che tutto hanno previsto, tranne la propria fine. Nicola. Gentile Nicola, è vero, negli ultimi giorni le borse mondiali hanno dato ancora una volta l'impressione di essere mercati in cui quella che viene chiamata speculazione ha svolto un ruolo da protagonista. I forti ribassi della scorsa settimana e lo stesso euforico rialzo di lunedì hanno dimostrato come nel breve termine sia molto fragile il legame tra economia reale, quella della produzione e dei consumi, ed economia finanziaria, che si basa sullo scambio di strumenti di pagamento. Ma precisiamo, innanzitutto non è vero che una sola persona schiacciando un tasto sbagliato possa mettere in crisi intere realtà industriali consolidate. È vero invece che i mercati finanziari amplificano, anticipano e condizionano le tendenze dell'economia reale. Per questo il vero punto critico è quello delle regole. Sono mesi che si discute a livello mondiale sulla necessità di una maggiore trasparenza, di maggiori controlli, di limitazioni agli impieghi degli strumenti derivati. Eppure, ben poco di concreto è stato fatto in questa direzione. E per esempio le agenzie di rating, più volte messe sotto accusa per i conflitti di interesse, continuano indisturbate il loro lavoro. I mercati finanziari hanno dimostrato nel tempo di essere indispensabili alla crescita di un'economia libera, ma la libertà si può esprimere ancora meglio all'interno di un sistema di regole concordate, condivise e fatte rispettare. Quelle regole che ancora mancano e la cui mancanza continua a lasciare spazio alla vittoria dei furbi sugli ingenui. Sono abruzzese e sono disgustato dall'uso della parola deportazione. Accostare la sistemazione delle persone negli alberghi della costa abruzzese alla tragedia degli ebrei, come ha fatto Ascanio Celestini, è semplicemente schifoso. Ma che si vergognino. La Guzzanti sta facendo esattamente la stessa cosa per cui accusa Berlusconi: sfruttare mediaticamente la tragedia degli abruzzesi per un proprio tornaconto personale. Giancarlo. Ho l'impressione che oggi parlare male di Berlusconi sia diventato un affare. La Guzzanti, Santoro, la Dandini e tutta la cricca degli impegnati di sinistra sono semplicemente dei mestieranti che fanno grana dicendo male di Berlusconi. La Guzzanti è mossa però, secondo me, da una certa acredine che le deriva dal fatto che non trova più posto in Rai. La Sabina, che si ritiene la migliore, non si rende conto o fa finta di non capire che in virtù della lottizzazione partitica della Rai, che c'è sempre stata e sempre ci sarà, i posti riservati alla sinistra sono tutti assegnati e occupati. Per cui è inutile che se la prenda con il Berlusca, ma se la deve prendere con i suoi, che non la considerano affatto la migliore, ma solo una delle tante, che cerca un posto. Renzo. Riguardo al tema del nucleare, vorrei far presente quanto segue. Bisognerebbe considerare l'aspetto salute per chi vive nelle zone in cui vi sono centrali. Vi sono stati molti studi in proposito. È chiaramente emerso che in tali zone sono cresciute in modo significativo le percentuali di diversi tipi di tumori, dovuti non ad incidenti, ma alle emissioni legate al normale funzionamento di una centrale nucleare. Questo fenomeno si è osservato in tutti i paesi che ospitano centrali o depositi di scorie. Di questo aspetto si parla poco. I sostenitori del nucleare affermano che anche il petrolio inquina e provoca morti. È vero, ma si pensa forse che con il 5% di nucleare in Italia si ridurrà in modo significativo il prelievo e il consumo di petrolio? L'aria diventerà più pulita? Chi lo pensa o è ingenuo o forse è in malafede. Al massimo si abbasserà di poco il costo dell'energia. Si tenga presente poi che l'inquinamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiale radioattivo è cosa ben più critica e pericolosa che l'analogo del petrolio. Qualcuno si immagina se nel Lambro invece di greggio fossero finite scorie o combustibile radioattivo? Enrico. A proposito del nucleare, mi domando e dico, perché c'è tutta questa smania di nuove centrali? La centrale nucleare non la puoi accendere e spegnere a piacimento. E poi di questa energia ce n'è già in abbondanza. Perché quindi fare ancora centrali di questo tipo? Visto e considerato che l'Italia è un paese che ha messo la moratoria, perché ci si deve svegliare nel 2010 a fare centrali nucleari quando ci hanno pensato altri paesi molto prima? Tutti i paesi adesso cercano il modo di fornire energia di punta, con valore aggiunto buono o di picco, con valore aggiunto ottimo. Questo avviene tramite le microcentrali o per mezzo delle centrali idroelettriche a turbinaggio e pompaggio, per esempio. E l'Italia? È ancora lì con l'energia di base? Visto che l'Italia è un paese abbastanza vergine dal punto di vista centrali, bisogna pensare a comprare a poco energia di base da chi ce l'ha e rivendere a un tanto l'energia di punta, cercando pure di guadagnarci. È pazzesco che si parli di sviluppo sostenibile e poi si decida di costruire centrali nucleari. Samuel. Rispondo alla lettera di Renzo, che si domanda chi accetterebbe di avere a pochi chilometri da casa una centrale nucleare. Tutto sommato, io non mi opporrei. Considerando vero che gli impianti moderni avrebbero un altissimo grado di sicurezza e certamente vantaggi economici per la zona che li accoglie, perché opporsi alla loro installazione? Perché non considerarli meno inquinanti addirittura di altre fabbriche e industrie che da decenni sporcano, impregnano l'aria di odori acri e sgradevoli e nocivi alla salute, che abbiamo imparato ormai a considerare parte del paesaggio italiano, soprattutto nelle zone industriali? Preferirei sicuramente una centrale nucleare sicura, piuttosto che una montagna che mi frani in testa, o un letto di un fiume che non regga forti piogge e mi faccia inondare la casa all'improvviso. Non sarà forse anche più pericoloso abitare in una bella villetta sulle pendici del Vesuvio o dell'Etna, o in una zona sismica? Quanti cittadini italiani hanno perso la vita per tragedie naturali e ancora purtroppo la perderanno? Ci spaventiamo davanti alla parola atomica, ma non pensiamo quanto per la nostra vita ci siano pericoli molto più vicini. Se guardiamo come potrebbe ridursi la nostra auto vedendo le immagini degli incidenti stradali che passano in TV, mi chiedo: ma chi avrà ancora il coraggio di comprarne una? Dopo un incidente aereo, chi potrebbe avere il desiderio di viaggiare ancora? Io sì. Per ognuno di noi ogni giorno può rappresentare la fine del mondo, ma non ci si può fermare. Giulia. You go to the girls' school and I go to the boys' school, both separated by a lollipop man. I must cross the street to get around to meet you, therefore I have to pass a lollipop man. Il Lollipop Man è una veneranda istituzione britannica. Normalmente anziano, uomo o donna che sia, è armato di un lungo palo sormontato da un cartello tondo su cui campeggia la parola STOP. L'attrezzo somiglia ad un'enorme lecca-lecca, da cui il nome, e serve quando costui si piazza in mezzo alla strada per fare attraversare gli scolari. Questa caratteristica figura non serve solo a garantire la sicurezza dei bambini, ma serve anche a migliorare la fluidità del traffico, visto che la sua presenza impedisce l'attraversamento a pecorone tipico delle nostre strade. Qualche Lollipop Man farebbe comodo anche qui da noi. Claudio Forlì. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.